c'è qualcuno? Attenzione sul 10, c'è qualcuno? Avanti sul 10. Avanti sul 10. Io ho parlato, come sto uscendo di radio? Insomma, ho una radio un po' confusa, è già. Non è una bella radio come quelle che hai tu. Non si comprende nulla, siete dal televisore. Molto si sente il televisore, no? Hola, prova, 1, 2, 3, prova, Catalana è bella. Hola, 1, 2, 3, e anche un bel forte. È troppo forte, guarda adesso va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E adesso già è chiara, poco fa no però. Perché la stavo riparando da questo microfono. Ah, ecco. La decisione, no? Cato, se hai rotto il pirilino che tiene il pulsante del PTT, quel pirilino che tiene il pulsante, l'ho dovuto fare la modifica. Ho capito. Vabbè, vado a mettere a posto tutto quanto, poi rientro. Va bene. Eccomi qua. A bisese. Hola. Hola. Hola, attenzione 10. Cucù. Ma guarda, venisce da un cucù. Gianni, tu sei? Sì. Ho sentito dall'altra stanza chiamare disperatamente. No, disperatamente no, ma stavo chiamando per vedere se c'è la gente. E sono disperato perché quel microfono che abbiamo comprato tutti e due uguale. Mi si è rotto quel pirillino che tiene il tasto della portante. E stavo ingegnando come fare. Di cavolo, ma ti si è rotto cadendo oppure premendo molto forte? No, io l'ho usato poche volte anche questo qua, già te lo ricordo, quando lo usavo tutti mi dicevano che stavo scendendo a tratti, quindi ho dovuto aprire, mettergli lo spray per contatti, e adesso già è a posto, là. E ho ingegnato una cosa, ho bucato praticamente dove c'era il pirillino che si era spezzato, ho scaldato un chiodo, gli ho fatto il buco, il passo, e gli ho avvitato la vis, e adesso già è fermo, già va bene. Sì, guarda, è la stessa cosa che ti avrei detto io, se non si è spaccato tutto, ma si è spaccato il pirulino, quello che esce fuori, fai un buco al chiodo caldo e metti una cosa passante da un inserto e la vite va benissimo. Sì, ho messo una vite autofilettante lunga che praticamente ci arriva giusta giusta, prende diciamo la punta e basta, va, interessante che tenga. Certo che è un microfono nuovo, cacchio, che si rompe così l'asse lì dove ruota, dove premi la portante, insomma, materiali proprio terra terra hanno usato, oppure un caso già, un caso. Io da quando l'ho disossidato era tornato perfetto, capito, però caspita, non è che l'abbia lasciato all'umidità nemmeno, no, era sempre in un cassetto chiuso, eppure hai visto cosa fa l'ossido. Adesso funziona, vabbè, e non ne sto usando, non ne sto usando, cioè non ho voglia di usarlo proprio. E io sto usando il 3009 nudo e crudo e puro, senza microfoni. E già va bene anche così, tutto la portata lì ci per forza esce così. Oddio, proprio nudo e crudo non è, ma non ho voglia di allungare il braccio e spegnere l'interruttore. Ah ecco, ti sto aiutando. No, sai cos'è? Sono coricato, adesso mi sono coricato sul divano e ho la testa, cioè il baracchino è alle mie spalle, no, non lo vedo nemmeno. Io ho messo tutta la sera con baracchino acceso, è entrato l'attalino, è entrato 5 minuti, poi ho detto un attimino che andavo a conservare la roba che avevo usato per fare quel lavoro, che sarei tornato e non ci aveva più risposta. E sta andando peggiorando questa situazione, mi pare mi rendo tutto. Anch'io ho notato però un pochino di mortorio, un pochino. Nel pomeriggio c'era Franco, in California, c'era Luca Flipper, ma siamo stati poco, mi abbiamo accompagnato giusto Carlo che stava andando a lavoro. E tutto lì, poi ho ascoltato un po' in altre bande, anche a tripla 5, ma la propagazione era strana, cioè a momenti ti arrivava uno dalla Scozia a 9 e 9 più, e il passaggio dopo era nel QRM, cioè la propagazione si apriva di botto e si richiudeva di botto, in modo repentino, capito? Non faceva nemmeno a chiamare così. E non era continua, va. Ascolta, ma Carlo, stavo usando l'antenna che tu sappia, l'antenna la Fustanera. Allora, a quanto ho capito, stava usando, ha nominato un altro tipo di antenna, presumo la stessa usando nuova, ha detto che la taratura non è in punta, ma alla base, adesso io non mi ricordo cosa lui, non me lo ricordo. E lui ha preso un'antenna, uno stilo proprio ha preso, uno stilo di Frustanera, e doveva provarla per vedere se andava bene, come andava? Praticamente noi l'abbiamo perso che non era ancora arrivato al lavoro, mentre certe volte lui arrivava proprio al lavoro, ma può essere un caso, già, poi lo sai, cambi da un metro all'altro, cambia da ricevere a non ricevere. Poi c'era un po' di mondezza, di corremi, di propagazione, quindi un po' lo coprivano, capito? Bisogna chiederglielo quando torna. Sì, a quanto ho capito, una Frustanera, non ho capito di che tipo però. C'era Frustanera classica, tipo quella natalino, oppure quella col mollone alla base, non ho capito, non gliel'ho chiesto. Di quelle caricate, penso, di quelle caricate lunghe, di quelle caricate lunghe. La doveva provare, me la stava dicendo l'altro giorno che doveva provarla e diciamo che lui aveva l'attacco di sotto, l'ha presa senza attacco e l'attacco gliel'ha messo lui, l'attacco col filo gliel'ha messo lui. Ma lui prima al lavoro cosa usava come antenna per andare al lavoro? Una Midland. Là, ne fa 20 modelli, non mi ricordo io già. Sì. Io con la Turbo 2001 partivo dall'aeroporto, sino arrivare a casa mi sentiva Carlo, mi sentiva, non mi prendevo l'attimo. Però devi trovare quelle giornate anche pulite, cioè ogni tanto sentivi voci, vocine, vocioni, in FM, in AM, su 10 e non fa così. Vabbè, l'abbiamo sentito fino a, adesso non mi ricordo dove era arrivato. Vabbè, comunque le prove comparative te l'ho detto come si fanno, lui basta che vada un po' lontano e attacca una, però deve essere nella stessa posizione, cioè non messa una centro tetto, una dietro in fondo alla tettuccia, no, deve essere sulla stessa medesima posizione, come facevo io. Metti quella, la provi, chiedi un rapporto, stacchi l'altra, metti quella lì, stessa posizione, e chiedi un controllo e vedi come va. Io così ho fatto al quadrato, abbiamo fatto la prova con l'anima lunga, con Salvidio, e ho messo la Turbo 2001 e la mia. E con una arrivavo tre attenuato, con l'altra 5 attenuato, quindi c'era la differenza. Cioè con quella nuova arrivavi meglio? Gianni, una domanda sorge spontanea, ma non è che la turba aveva un qualcosa per cui stava lavorando un po' male? Tu mi avevi detto che quella base magnetica era anche ambigua, cioè nonostante fosse grande era blanda blanda la calamita, tant'è che ti aveva fatto anche danno o parzialmente danno, e in confronto l'altra era molto migliore come base. Poi non so, ci sono tante cose, per esempio addirittura ho trovato che in certe basi la calza era la base, nota bene, non la calamita, ma la base magnetica, il metallo della base era isolato dalla calza che in realtà la calza dovrebbe toccare sulla base, poi vabbè, la calamita non tocca, non c'è continuità perché c'è una resina epossidica, è incollata la calamita. Però addirittura in certe antenne avevo visto che era isolata la base dalla calza, capito? E non, sembrano tutte uguali, ma non sono tutte uguali queste basi magnetiche. Per esempio, le Midland, che sono molto simili alle Sirio, devono lavorare con quella specie di pellicola attaccata sotto, credo sia una pellicola metallica, e invece le Midland no. Anzi, nelle Sirio raccomandano di metterla, te la danno di serie, no, raccomandano di metterla. Allora, la base magnetica che ho io, se tu ripuli la gomma sotto, lo sai che cosa c'ha? C'ha praticamente tipo il cookie, sopra, tutta quanta rivestita con questa carta di alluminio. E poi sopra ci va la gomma, ci va il cerchio gommato, però sotto risulta, forse lo usano come specchio riflettente, non lo so, ed è anche quello lì che può darsi che gli faccia, la faccia performante l'antenna, capito? Ma no, l'antenna, la Tubo 2001 c'ha uno, 1 e 1 di stazionari al massimo, perché le misurate da poco. Sì, però vedi già, le stazionarie sono un conto, però l'efficienza dell'antenna, tu mi dicevi che era diversa dalle vecchie versioni della Turbo, e non vorrei che avessero fatto la bobina in modo diverso, insomma, ti hanno fatto un arrangiamento per cui magari l'antenna è meno efficiente, pur avendo sempre 1 e 1 come le vecchie, magari era meno efficiente. Mi pare che c'era una cosa del genere, qualcuno si era anche lamentato delle ultime Turbo 2001, o sbaglio? Vabbè, ma io ne ho una che è di vecchio tipo, quello che ho, che ho provato, l'altra che ho comprato, che poi non ho mai usato, ed è nuova di zecca, proprio mai slegato nemmeno il coso, non ho slegato manco il filo, niente. E praticamente rimanca solo il nylon, perché ci l'ho buttato, poi io all'inizio l'involucro devo buttarcelo subito, faccio sempre così, in tutte le cose, non mi dà fastidio l'involucro. Beh, fatto sta che quella che ho nuova è di nuovo tipo, l'altra però è di vecchia generazione, quindi va bene ancora. Io ho capito. Ascolta, per caso l'hai provata un po' più spedito guidando quella base nuova? Sì, l'ho provata. No, la provo ogni giorno perché faccio strada e quindi la provo, anche se non c'è nessuno, quasi mai. Però la metto sempre, cammino, vado 130, 140, non si muove manco di un millimetro. Ah, quindi già testata e non fa una piega. Ma sai perché? Perché a me questa della Lemma me l'avevano descritta come una super base, bella, fortissima, non si stacca mai. Sicuramente quello che me l'ha raccomandata, cioè che me la stava lodando, era uno che ce l'aveva, e quindi se ce l'aveva lui era perfetta. Ne stavo parlando con un forum, con questo tipo su un forum, no? Sicuramente ce l'aveva lui e me l'ha descritta come un monumento, invece poi nella realtà si scoprono le magagne, capito? Perché ti sei staccata? No, dico, questo me la descriveva come una super base magnetica, questa larga della Lemma. No, lui non gli stessa, però me l'ha descritta come una base eccellente, qua resiste alla velocità, sicuramente ce l'aveva lui a quanto ho capito, invece no, a te ti sei staccata, quindi vuol dire che non è così forte come tenuta come diceva lui. Probabilmente lui aveva un'antenna debole, leggera. Io l'antenna che avevo io era pesante e probabilmente anche quello lì è dovuto anche a quello, che l'antenna è troppo pesante e non ce la fa tenerla. E avendo un'antenna più leggera magari non ha problemi. Poi avevo un vizio, per non graffiare il tettuccio della macchina, prima di mettere la magnetica, li buttavo l'acqua e la pulivo, capito? Di modo che togliesse la polvere e che non graffiasse il tettuccio. Probabilmente la tenuta non è stata, diciamo, come doveva essere, perché il tettuccio era umido, non lo so se è anche quello. L'umidità lo fa patinare, la base la fa patinare. a me mi si era un po' spostata, naturalmente poi io vado piano. Comunque già, questa va la Turbo 2001, questa del forum, però cosa ne so io se lui va guida tipo pensionato e quindi va a velocità ridotte, è chiaro che non gli si staccherà mai, capito già. Marco, a me quando mi si è staccata lo stavo correndo e sarà stato 80, 70, 80. E il problema è che c'era molto vento il giorno, c'era molto vento, quello sì. E magari ha beccato il vento contrario alla velocità di marcia e quindi ha fatto il massimo della... capito? E invece a me a Porto Torres era Passo Duomo, a Porto Torres, in via Barai si chiama, no? Passo Duomo lì, macchina, andando tranquillo, cioè no. A un certo punto sento sdreng, ho detto qua era caduta sulla capota l'antenna. Mi fermo subito e non c'era nessuno, non c'erano cavi, non c'erano cose in mezzo, non c'era niente. Non c'era niente e l'antenna è caduta, sicuramente lì cos'è stato già, e io non me ne sono accorto, è arrivato qualche gabbiano volando basso, non vedendo magari lo stilo, si è tirato lo stilo, o un piccione me l'ha buttata giù, e stavo andando a 20 orari mi, cioè avevo passato lo stop da poco, e sento slang, ho detto e l'antenna si era coricata sulla capotta, capito? Era più sicura, sì, me l'avevi detto già questo particolare, me l'avevi già raccontato. Vabbè Marco, dai, ti sento con a portare giù Tyson, che già tardi, non me ne accorto dell'orario, dai. Stammi bene, grazie per il questo, scusami ma devo andare. No, ci mancherebbe già. Anch'io vedo molta luce, credo che siano le 5 di sera, invece sono le 7 meno 10. Ancora non mi sono abituato. Ciao già, buona passeggiata, buon tutto. Ciao, ciao, grazie. Attenzione binario 10, attenzione binario 10, c'è qualcuno, cambio. Hola. Attenzione binario 10, cambio. Cambio. Hola. Hola. Hola, cipo 10, attento 10. Roberto? Ciao Nardì, è bene. Buonasera Roberto, allora? Io ho acceso adesso, te c'è adesso, c'è qualcuno, ci sei tu. Aspetta un secondino che devo regolare una cosa che non mi piace. Un secondino, sto andando portante, cioè c'è una cosa, ecco qua. No, c'avevo un po' il rosso alto. E io sono col baracchino stasera, mi roba. No, già spinge, 9, qualcosina più di 9, sì. È un superstar. È un superstar, non ho voglia di stare con le altre. Sembra la radio è molto forte, però classico radio da baracchino un po' intubata, ma già si capisce, dai, già va bene. Ehi, lo sto usando con liscio, liscio, liscio, liscio, col Turner più 3. È molto forte quella radio, 9 più 5 il tuo segnale. Sì. Oh Robè, se vedi sta radio è impeccabile. Sa bene, ma l'hai presa quella che mi avevi detto tu, che c'aveva un amico ancora che se ne è pentito perché erano troppo piccoli tassi per quello. Esatto. Questa radio è immacolata, no, se voi non esiste un superstar così nuovo. Solo a negozio, quando l'ombiglia è nuovo. A me i baracchini, poi guarda, ne ho un paio di veicolari, vabbè, c'ho l'alapanatoto che è stato il primo che ha avuto, me l'hanno regalato un amico, c'aveva una settimana di vita e come me l'ha dato è rimasto, un paio di volte l'ho usato, ma ce l'ho più che altro esteticamente per estetica e boh. Non riesco ad andare io con i veicolari, a parte poi l'alapanatoto c'ha quel cavolo di potenziometri perché ha commutatore per i canali durissimo. È una radio di ferro, dai, come dico io, tosta, robusta, però ci sono un sacco di modifiche. però non mi piace. C'ho dei bei stazioni base, ne ho diversi, ce n'è uno che è spettacolare, l'Intec Muti con 497 che è migliore del 140 come ricezione, è silenziosissimo, una radio spettacolare, proprio uno degli ultimi che hanno fatto base, c'ha tutte le funzioni possibili e immaginabili, con tastiera eccetera, è grande, è più grande di un 440 come larghezza, un po' più basso, però ti posso dire, io avevo 140, anzi ne ho avuto due, come silenziosità era meglio del 140, l'unico problema è che di modulazione non serve a nulla, devi mettergli un bel microfono, amplificarlo, perché è molto strozzato, siccome è un apparato omologato, uno degli ultimi omologazioni che hanno fatto, però c'ha tutto, display a cristalli liquidi, ma non può, sembra un coso, un HF se tu lo vedi. Sì. Ma no, proprio io ho acceso questo qua stasera, roba lo accendo per farlo girare anche un pochino, però lasciali sempre, perché ce l'ho qua in stazione, ce l'ho qua nell'altra radio, perché è proprio nuovo. E ogni tanto lo accendo perché non voglio che si rovini, sì. Sì, è giustissimo, anche se devo dire quelli di nuova generazione non hanno grossi problemi, diciamo, o si rompono del tutto, perché sono tutti SMD, non hanno componentistica superficiale, diciamo, a vista, condensatori e cose del genere, sono molto limitate da quel punto di vista. E poi c'ho il glorioso Pace, che è quello che aveva fatto prendere Claudio, appena sono entrato in frequenza, subito mi ha cercato, aspetta, cerchiamo un coso, quello col tanno più tre era una bomba, lo so come usciva quella radio, una spettacolare, un vecchio anni 70, tutto in alluminio, sembra un amplificatore domestico, c'ha tutto il frontale in alluminio satinato, bello grosso, con tutte le manopole in alluminio, c'ha tre strumenti, l'orologio eccetera, però di modulazione è una bomba, però in ricezione fa schifo, quello basta, ci sia un segnale 940, satura, devi attenuare, sblatter da tutte le parti, però modulatore da paura, mentre l'Intec è eccezionale come ricevitore, ma la cagata come modulatore. Riprendi Gabriele. Sì, io non è baracchino, ho avuto tanti, ho avuto il Magnum dell'S9 modificato Colt, vabbè, un po' di anni fa, poi niente, poi avevo mollato, poi ho ripreso un'altra radio, questa qua è la, diciamo, quando ho voluto riprendere di nuovo questa, diciamo, questa attività, mi avevo preso la Grazioli e avevo preso questa radio, quindi uscivo la Grazioli con questa radio qua, mi segue, è stato il mio primo, dai, la mia prima radio da questo novembre fino a oggi, infatti non lo tengo qua perché ogni tanto lo uso, mi piace anche usarlo. No, assolutamente, è una bella radio, poi di quella nuova generazione, molto efficace, molto silenzioso, no? Non è di quelli, diciamo, degli anni 80, anni 90. Poi me l'aveva regalato un amico maestrale, mi ha regalato un piccolino, un ala, non so cosa sia, piccolino, tipo da mettere in macchina nel camper, l'ho messo un paio di volte e poi non l'ho tolto, ho detto adesso mi metterò probabilmente un VHF così per quando vado fuori col camper e basta. Poi c'è un vecchio Royce, perfetto, quello nuovo fiammato, solo a 110 volt con il suo trasformatore esterno, ne ho diversi di apparati, poi c'ho sempre base, un altro Intec, quello che c'ha l'Echo, Roger Beep e tutto quanto, quello che rimane nero col frontale leggermente inclinato, però sinceramente non è un granché, è poco più di un ala 48, anche se è più grande col suo alimentatore interno. Io ti ripeto, a me i piccolini regolari non, e poi c'avevo, dove ho iniziato io, un, come si chiama, un palmare, l'Intec, cosa si chiama, un Intec Handicom 40 canali, senza smitter, senza niente, tra solo i canali e e basta, e poi altri 3 o 4 di questi veicolari, ma ti ripeto, a me non piacciono. Riprendi la vita. Sì, io ho acceso il 450, adesso lo lascio un pochino prima di iniziare dalla trasmissione, perché anche se è un segno digitale, però non lo uso subito, mi segue, lo faccio sempre scaldare 5-6 minuti prima di utilizzarlo. scappa. E il 140 era così, dovevi farlo scaldare per renderlo operativo, stabilizzarsi termicamente, e ti dava un po' più di potenza una volta che scaldava. Mentre il 440 come attacchi va sempre a piena potenza, magari c'avrà altri difetti, questo no, non è dubito, però schiacci direttamente e va. Il 140 invece si dovrebbe stabilizzare termicamente e ti tira fuori qualche watt in più rispetto che accenderlo subito. Ok, dico, poi l'avrei fatte poi le prove, non le puoi fare le prove con un due antenne e un commutatore, modo dici questa è antenna 1 e questa è antenna 2? No, vabbè, non ho avuto tempo di nulla, devo, ce l'ho qua il commutatore, ce l'ho qua un dive, è buono e non è neanche un commutatore da niente, però non ho avuto proprio tempo, non ho avuto proprio tempo, e ho acceso, poco fa io quando sono entrato, e poi stavo facendo cosa fuori e prima di cenare ho acceso la radio, infatti ho sentito che ho chiamato e sono entrato, e niente, aspetta che entro con l'altro, dai. Chi è andato che vuole entrare? Cazzo, le navi ci sono, beh, vabbè. E questo spinge un po' di più, con questo 6-9-10 di portante fissa e poi quei picchi lo superi appena appena. Ma così è che con l'altro sto uscendo con, l'ho portato a 3 watt di portante bianca, e questo di portante bianca ne ha, quanto ne ha? 22 watt, e dacci un po' di differenza. Sì, i picchi di modulazione è un altro, pianeta, dentro la modulazione è diversa, corposa, bella piena, sembra una telefonata. L'altra era un po' più metallica, intubata, però andava molto bene anche quella lì, per essere una radio normale, diciamo, con quel microfono c'aveva un bel abbinamento. Sì. No, ma me lo tengo quel supercar, perché mi piace, no? Non ho preso di questo Turner, l'ho portato per lui, perché ha lo stesso colore, è cromato, quindi lo lascio così, Adesso vedo un po'. Un pochino, oggi non ho voglia e sono stanco, Roberto. Oggi sono stanco. Ho lavorato stamattina e stasera ho fatto una cosina, ma sono a pizzi. Sì, anche io, no? Come sono arrivato qua a casa, mi sono sdraiato 10 minuti, ho chiuso gli occhi proprio per rilassarmi, ero a pezzi, perché la settimana è stata molto pesante, poi dovevo andare a prendere mia figlia col treno che stava arrivando da Cagliari alle 8:10, poi ci siamo fatti con l'altra figlia, ci siamo presi un panino, la Roberto ci fai mai tu, perché il fratello è Renato, dai. Allora, da fidanzato, quando ero fidanzato una volta, tutte, beh, 3 volte alla settimana andavamo a prenderci il panino. Adesso abitando qua, roba, è un po', dai, viene fuori mano, cioè devo fare un casotto per salire a Sassari, non è indifferente, già io quando salgo a Sassari è un incubo. Poi tu direi come hanno ridotto la strada di Monterrasu, per esempio da qua a Porto Torres, ci sono 10 semafori per cantiere, è uno schifo. Ora conviene più passare da Pratamona che da Monterrasu. E prova ad andare a Trentino, la moto se che andare verso Trentino, non so, io spero che prima dell'estate li temino, stanno mettendo la fibra, tutto il pezzo da come esce dalla zona industriale, dove c'è quella rotatoria della zona industriale, è tutto interruzioni con semafori, ma semafori che durano 3 minuti l'uno, che poi deve aspettare un minuto che attraversano tutte le macchine e poi alla fine sono 4 minuti, una cosa allucinante. Quindi io d'estate non so come, io sono passato un mesetto fa che non c'era nessuno, nel senso non c'era traffico il pomeriggio di domenica alle 3, non verrà nessuno. Tu devi vedere quanto tempo ci ho impiegato per arrivare a Fiume Santo, dove ci sono i generatori eolici di lì, ci avrò messo mezz'ora. Ma anche qua stanno mettendo la fibra, anche questa qua è fibra, ma io non ho capito a questa gente come sta lavorando, non lo so come stanno lavorando queste persone. Poi stanno sfasciando, aggiustando e aggiustando male, cioè aggiustando male, cioè il pezzo che vai, quando esci da Ferro Torres e fai la rotatura e vai verso Sorso, è fatto male, robè, dimmi qualcuno di lì, magari in macchina no, ma qualcuno in moto si fa male. Sì, perché è troppo facile, l'asfalto poi era bello, nella strada, la Budimudi era bello liscio, tutto qua. Ma se non buco non è che lì velli perfetto, no, ci buttano sopra roba un po' di sabbia e poi sopra ci sono tutte le dune, i dossi, eccetera, eccetera. Secondo come passi in moto o se si forma qualche pozzanghera d'inverno, non la vedi da ammazzi. Allora so, purtroppo è così. Tornando a lui, mi hai mandato ieri la posizione. Ma vicino a te cosa c'è? Perché c'era un coso di qualcosa, aiutami. C'è cosa c'è? Un bed and breakfast qua secondo me. Non riuscivo a capire, un bed and breakfast era, non riuscivo a capire, pensavo fosse qualcosa di anziani, ho detto, tu l'hai mai visto? No, un bed and breakfast, anche bello. Fu attaccato a me. C'è una straordinaria base e mezzo però attaccato a me. Siamo antico casolare, sì, no, è una bella struttura. È fatta molto alla sarda, dai. Molto alla sarda. E poi a fianco a me c'è un radioamatore. Vicino a te, radioamatore. Chi è? Riccardo si chiama, è diciamo di Praga. Sì, ho capito chi è, non lo conosco personalmente, però so chi è. Quello che spesso rimane tanti mesi qua, poi se ne ritorna. Mi sembra che sta montando un traliccio o qualcosa del genere. E allora, ha giocato la mano e ha pulito già a piazzarlo. Tu gli hai dato la mano, grosso, ho visto delle immagini, perché facciamo parte di un gruppo dove c'è anche lui. 1,50 m di traliccio pesa 40 kg. 50x50, mi sa, ma in ferro, frangiato, non ho detto, cioè ho detto a me, perché lui ha detto che è alluminio, è un po', perché ha visto i miei, ha fatto, e poi se era possibile comprarli qua, ha detto certo che è possibile comprarli, è possibile, però se tu devi fare 8 metri di traliccio, 10 metri di traliccio, in alluminio non ti basta, cioè 150 euro al metro. Attenzione, il traliccio, quello 30x30 che ho io, 150 euro il metro, e lui l'ha fatto in ferro, l'ha fatto fare in ferro con le flange, ha fatto un fosso, 4 metri cubi di fosso con la maglia, e adesso quando viene, quando è, perché è partito di nuovo, adesso quando viene gli do una mano a fare il calcestruzzo e a, perché lo faccio una betoniera, capito? Ma ho visto che lui il traliccio l'ha infilato direttamente in terra, non ha messo delle piastre come sono tutti, mettono un plinto con le barre filettate, poi lo ha visto solo lui, la bilancia ce l'ha buttato di mezzo e poi fa il gettito. Esatto. Non a terra, in pratica prende e affoga un metro, diciamo affoga 2 metri di traliccio nel coso, nel calcestruzzo. Non sbaglia, perché poi agganci con la frange e ben salendo. Sì, ma lo sai cos'è il problema? Come robustezza sicuramente è eccezionale, però se domani non lo devi smontare, devi la moneta e ne tagli tutto. Se invece metti, fai quello con la piastra largo, la mettone grosso da 5 mm, da 3, da 2 cm, come ti piace, ti fa una bella piastra così e ci metti le barre filettate, ti puoi mettere anche la torre di controllo. No, che lui ha messo il traliccio, in pratica ha dovuto affogare il traliccio nel cemento. E a livello di terreno, 30 cm più fuori dal terreno rimangono 4 frange. In pratica lui poi il traliccio che andrà l'antenna, la bullona invece la bullona lo calcia direttamente, calcia tutto, quindi rimettere i tassili, rimettere barre filettate, e prende, c'ha già le misure del traliccio e abbullona le frange. Ah, è frangiata la base, cioè io ho visto che l'ha buttato sotto, ho visto il video che ha fatto, una cosa esagerata tra l'altro, con quanti metri deve salire lui? 12 metri deve salire. Sì, vabbè, meglio, non, cioè più grosso lo fai meglio, però io avrei fatto un altro sistema, anche più bello esteticamente, perché poi mi mette ferraglia, non mi sembra neanche ferro per dire acciaio inox o cose così. No, è ferraccio, ma glielo ho detto, glielo ho fatto capire che è ferraccio. Nel ferraccio zingato, quello lì quel printo voleva più grande, siccome quel printo voleva magari sì lato per lato va bene, ma voleva più profondo, voleva più profondo, vabbè, quel printo secondo il vento che tira qua gli risolleva, cagge tutto e tutto, tu vedo già picchia qua il mezzale. E poi qua la terra non è, è tutto sabbia, ma sabbia, sabbia, mi robe, lo so come lo tira fuori quel traliccio. Hai detto bene, mi hai anticipato, infatti lì è tutto sabbioso, devi fare una piattaforma larga, molto larga, non tanto profonda, molto larga, vuole e spessa, lì c'avevano 2 metri le campagne, c'aveva in quella zona lì, è tutto sabbia, il pozzo lo trovavano l'acqua, a 4 metri trovavano l'acqua, facevano il fondo, il pozzo col picco, per dire, soffice il terreno, di lì è inutile, lui ha fatto una cosa che va bene sulla roccia viva, su cose del genere, come hai detto tu, secondo lo sforzo che fa, si ribalta tutto il blinto intero, ne esce tutto il blinto in tre. No, non è che ci vuole molto a capirlo, ma io gli ho detto, lui tu hai fatto questa, una cosa fatto perché è stata progettata, e poi vabbè, contento tu, contenti tutti. Tu mi hai nata a casa che dice mi deggio. Vabbè. Ma siete vicini perché siamo confinanti. Allora devi organizzarsi dei tiranti in modo se deve cadere cade dall'altra parte, non ti aggancia dalla parte tua. Ti ammazzo, Si mi riservo ammazzo, Robe. Ma cosa è tedesco? Aspetta, ricordami di dove è questo? No, di Praga, a Repubblica Ceca. No, ho capito. È amico di due amici miei di radioamatori, infatti hanno messo il video loro di questo lavoro qua, infatti si fa l'anima di cosa, però non mi è piaciuto il discorso, poi adesso capendo dov'è è tutto sbagliato, devi fare una piattaforma molto ma molto larga per non farlo ribaltare. Quello lì succede appena appena anche con l'acqua, perché con la sabbia ti porta, ti mangia tutto sotto, tutto in gaggia intera, se non metti contro 20 a 12 metri probabilmente lo voleva fare autoportante. Quanto ho capito io deve fare quella misura lì 12 metri, ma secondo me li deve mettere, ma poi i tiranti per quella struttura lì l'hanno preso e hanno fatto un altro plinto, almeno un altro buco o un altro scavo, almeno deve essere 50x50 e profondo almeno per mettere i tiranti almeno 1,50 m, 2 metri, ed è anche poco, perché sembra così, una volta e sopra gli metti, perché a quanto ho capito deve mettere una direttiva lui, a quanto ho capito io poi non lo so, quindi si deve trattare bene, ho visto un rotore, vabbè, qua da Riccardo assurdo, sembra quasi fosse un gabinetto nero, grandissimo. Lo so, poi lui deve stare attento, lì c'è il vento, dillo a qualche amico, tralicci più bassi di quello li ha traricati, proprio traricati, ma messi sul cemento armato, fissati in tutti i modi, la tronca in due, e lì non c'è a scherzare. C'è un amico mio di lì, è zona di Lumagno, c'aveva la parabola a 120, la ciappa da a 500 metri di distanza, ne ha traricato, perché devi stare attento anche al Levante, ma adesso è maestrale, tutti i venti da nord li prendi in pieno. E allora che prendi tutto, io qua mi sono organizzato bene per quello, perché io non ce l'ho a terra, io ce l'ho sul tetto, capito, quindi ancora più esposto, i miei 6 metri sopra il letto, quindi è 6 di mio stesso è 12 metri a terra. Bisogna stare sempre attenti, se c'è la possibilità quando ci sono quelle giornate forti di vento tempestoso abbassare, fare tipo un carrello in modo che l'antenna la salvi, se no guai. La cosa, Andrea, lo stesso amico mio, l'ha aspettata in due, c'ha una direttiva un po' più grande della tua, dai, come dimensioni, la trunca da in due proprio. Ma io infatti guardo sempre il meteo, quando ci sono state giornate di vento, di mezzo, quella giornata che ha fatto quella nottata di mezzale forte, io ho preso da solo, non ho abbassato il traliccio, perché io ho, diciamo, il mio è basculante, no? Il mio è basculante, come lo metto a terra, ci metto un attimino, mollo gli ali, scaffo, tolgo la sicura e abbasso tranquillo, non me ne frega niente, l'abbasso e tolgo i radiali e sfilo l'antenna, ma proprio la sfilo, lascio solo la base col traliccio, la sicura e tolgo tutto così per la direttiva l'ho fatto, abbasso prima la direttiva poi la reazione, almeno io ci metto se hanno a fare questo lavoro qua 10 minuti. Non sbaglio, io sono preoccupato per quella che devo mettere io, che qua il vento tira, non è come da te, però cavolo, qua ci sono le traversie, si incanala in mezzo ai palazzi e fa un bel danno, e il maestrale entra dritto dritto, a me mi prende proprio in pieno in pieno. E con l'antenna non è leggera quella che ho io, perché poi c'è tutto il carico del coso, speriamo bene. Perché il vento adesso, per dire, 20 anni fa era raro vedere delle tempeste di vento oltre gli 80 km orari, adesso è una normalità. L'altro giorno a Olbia c'erano 130 km orari di vento, quando c'era la maestralata, quando è un 15 giorni fa più o meno. Mica 130 km orari è un BM. Quella notte che ho preso la passata traviccio era 100 km orari, a luna di notte, luna un quarto di notte, era 100 km orari, faceva paura. Faceva paura, era... non lo so cosa c'era, vabbè non lo so cosa c'era qua, come deve essere, sono proprio bello perché mi puntano, tranquillo, vai tranquillo, va lì, pieno, mi arriva e mi stava facendo a beffa, perché poi la puri male, sei solo al buio la notte, qua lascia perdere. Ma non dirlo a me, la parabola quella grande, quella da 2 metri che penso a 40 kg la parabola, altri 40 kg tutto il sistema di motorizzazione, l'ho smontata perché la notte ero sempre spaventato, detto, anche se c'aveva un palo di diametro sarà stato da 40, boh, cosa ti posso dire? L'hai visto quello che mi hai dato tu, lo scatolare, più grande di quello, il tubo che reggeva tutto l'impianto, è impossibile che ne stracciava niente, però detto, non si sa mai che strappi la cosa, la parabola è fissata in un modo particolare perché è una parabola professionale, resiste non so quanti chilometri orari, però col tempo non lo so, sentivo questi colpi, boom, boom, boom, sembrava che stesse prendendo a colpi di martello e non era orientata direttamente nella posizione, perché io le giro un pochettino per evitare che lo prenda in pieno, che faccia meno effetto vera possibile, eppure i colpi che li sentivi, proprio sentivi sbattere, proprio boom, boom, non l'altro giorno, vabbè, c'era già smontata un po' la parabola, ma l'anno scorso l'ho tolta in varia ottobre questa antenna, questa parabola, però l'inverno precedente cavolo se si sentiva, ce l'ho già da 96-97 l'avevo messa quella grande. Guarda, vabbè, quando c'è il vento sembra che sono i demoni sul tetto, fa, non è che dà l'acqua che fa, ma lo so quando fischia, quando passa il vento, però io ho fatto, penso di aver fatto una formata, perché io ho fissato una formata involuta, perché non è che l'ho fatto con lo scopo, però il mio è un traviccio triangolare, no? È un traviccio triangolare e non ha proprio, è triangolare e soprattutto è tubolare, sia nelle, diciamo, nelle barre di forza tra un tubo e l'altro, sì, anche nella punta, capito? È tutto bomba, è un traviccio bombato, è un traviccio molto bombato e quando c'è vento, secondo me è una cosa che fa tipo dinamica, tipo aerodinamica, che si fischia, però il traviccio non lo muove tanto. Ma caspita, non lascia certi rumori, se no sono infantati. Fa tipo un flauto, effetto flauto, sì lo so, anche Giulio, lo conosci Giulio, CB, radioamatore, lui l'antenna la matematumo l'inverno la toglieva, dice, non la vuoi subire, fischiava proprio, sentiva, e alla fine ha scoperto che l'antenna, dice, basta, si è messo la game master, perché dice non ne poteva più perché faceva un rumore, anche per i vicini, eccetera, non era, diciamo, molto consigliato tenere una cosa del genere. L'inverno infatti ce l'abbassava, lavorava con l'antenna molto bassa, infatti perdeva tanto segnale, alla fine ha detto ha dato gol del tutto, e mi ha messo, mi sembra, una di quelle game master, tipo quella da pesca. Sì. Ma d'inverno, Roberto, la dico una cosa, io adesso l'ho voluto fare per provarla, però d'inverno me l'ammasso anch'io l'antenna, addirittura questa che mi ha dato tu d'inverno la smonto, perché intanto d'inverno non te ne fai niente. Non è solo l'avere preoccupazione, basta, i pericoli, e poi è un peccato perché si rovina oppure, quindi la colazioni d'inverno prendo, me la metto, le tolgo 3 metri, la lascio 3 metri sopra il tetto, ma io metto 1 metro di tubo, però non la lascio così, ho lasciata quest'inverno qua perché dormire la notte, anche se sono in campagna, sono da solo, non me ne frega niente. Però se cade, però se me ne vuole cade l'antenna, o se no entra lì, mi cade sul tetto, mi fa danno, poi se rompono le antenne, se mi prende la macchina o l'amazing rompe le scatole, quindi l'abbasso e la tengo a 3 metri e poi dopo arrivo. Infatti è meglio così, fortuna tua, tu sei ancora in campagna, io che sono in città, se gaggia di qualche pezzo sotto le macchine, la via dove abito io l'ho visto dire tutto pieno macchine parcheggiate e cose, mamma mia, mai dove si riesce a cadere, è una cosa, un terrore. Ok, cosa ti volevo dire, quindi oggi niente collegamento, non hai provato niente? No, non ho provato nulla, roba, perché ero tutto guaiato, via. Di sociale sono stanchissimo, ma sono stanco a livelli formidabili, tipo mostro. Già lo so, ma a me mi scombusso, a te non so se sarà lo stesso caso, il cambiamento degli orari, perché io sono molto regolare, sia per il mangiare, per andare a letto, per alzare. Una volta che tu mi scombusso, ci impiego un mese per recuperare il coso fisiologico dell'organismo. A me mi scombusso la primavera, il caldo, a me il caldo mi ammazza il caldo, ma mi dà fastidio proprio agli occhi, capito? È una cosa che non sopporto, è una cosa, io quando, cioè in serata, infatti sono nervoso, ma lascia qua, non, io il caldo l'ho sempre odiato, a me ci possono essere 30 gradi sotto zero, non mi interessa niente, ma io sono stato a 10, a 15 gradi sotto zero lavorando e non ho avuto mai problemi, però se mi metti a 20, 25 gradi mi fa schiumare, proprio no, e poi il coso è che non sudo. Io sono una persona che non sudo, robe, non ho capito, mai sudato, forse è per quello che soffro il caldo, perché non sfogo tutti i sali, capito? Quindi, proprio io scendermi un goccio di sudore, devo farmi 40 km correndo a palla. No, anche io il caldo non lo sopporto, infatti. Quando vado al mare o sono dentro l'acqua in zona d'ombra, non ci riesco a stare, freddo lo riesco a sopportare, ma il caldo non vi ne è. Infatti io qua a casa mia è freddissima d'inverno perché non c'è sole, ed estate lo prende tutto il giorno, dalla mattina alla sera al tramonto, abbiamo un caldo da muri, infatti io la notte devo, da fine giugno sino a settembre, a fine agosto, da inizio di settembre, l'aria condizionata accesa tutta la notte, se no non riesco a dormire, perché arrivano a 33 gradi, senza aria condizionata dentro casa, nella camera da letto, dove viene da morì, è una cosa assurda. Cambiando discorso, quel crossover che mi hai detto tu, sono due vie o tre vie? Mi sembrerebbero a tre vie, cosa dici? No, sono due vie.